Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Tsunami si abbatte sulle isole Samoa, decine i morti. Scudo fiscale oggi il voto di fiducia a Fini. In iter, decreto oggettive, anomalie. Sanatoria Badanti, Maroni stoppa la proroga. Inflazione Istat a settembre, meno 0,2% sul mese, più 0,2% sull'anno. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi. Lo tsunami che si è abbattuto sulle isole Samoa nel Pacifico meridionale. 113 morti fino ad ora in diretta. Valentina Furlanetto. Sì, come dicevi, il bilancio fornito da fonti ospedaliere e delle autorità comprende le vittime accertate ed è finora di 113 morte. Decine di persone però sono date per disperse nell'arcipelago, dove le comunicazioni con numerosi villaggi sono interrotte. Nelle Samoa indipendenti sono stati finora contati 84 morti, nelle Samoa americane 22 persone decedute, altre 7 persone sono morte nelle isole Tonga. Lo ricordiamo, c'è stato un terremoto nella notte di potenza 8.3 della scala Richter e poi uno tsunami. Non ci sarebbero italiani fra le vittime, i 16 residenti italiani stanno bene e non ci sarebbero stati turisti. Sentiamo alla TV neozelandese la testimonianza del primo ministro di Samoa, Misa Telefoni. Those resorts in that end of the island we've been told have been devastated. Circa i resort che si trovano alla punta estrema dell'isola, possiamo dire che sono stati devastati, sono stati colpiti molto severamente. Anche il costo a livello di vite umane è stato molto elevato. Ovviamente ciò che è successo avrà delle serie conseguenze sulla vita della nostra gente e possiamo certamente affermare che niente e nessuno sarà più come prima. Il paese non sarà più lo stesso, perché ogni volta che guarderemo l'oceano la nostra percezione sarà diversa da prima. Mi riferisco alla sensazione di pace e serenità che abbiamo sempre avuto guardando l'oceano. Nell'arcipelago ci sono anche alcune missioni, fra le quali quella dei Salesiani. Il coordinatore è padre Moloni, che abbiamo contattato poco fa a Melbourne, in Australia. Noi abbiamo una missione a un posto che si chiama Alafua, che è meno di un chilometro da Moamua, nell'isola più grande, Upolu. Lì non è successo nulla? Nulla, neppure il terremoto non ha distrutto niente. Ed è molto lontano dall'acqua e su una collina molto alta. Per questo forse? Sì. Invece ha notizia della situazione nelle zone meno alte? In Samoa c'è una parte molto povera nel nord-est dell'isola e hanno sofferto non tanto del terremoto ma dal tsunami e ha distrutto parecchie case e ci sono parecchi morti. Questi tsunami sono o no prevedibili? Dopo Samoa si cercano delle risposte e forse potrebbero venire dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, che avrebbe messo a punto uno strumento con dei sensori posti nelle aree marine a più alto rischio terremoto, permettendo di sapere se un'onda anomala si è formata oppure no in seguito a delle scosse. Allora sentiamo Nevio Zitellini, a capo di questa ricerca. La sua particolarità è quella di essere in grado di vedere la generazione dello tsunami nel momento stesso in cui esso si genera. Però per fare questo bisogna sapere qual è la sorgente tettonica, cioè qual è il problema di fondo. Quando c'è un grande terremoto in mare, uno tsunami si può generare oppure no. Cioè noi non siamo in grado, in seguito alla misura dell'evento di terremoto, se si è generato o no lo tsunami. Quindi cosa succede? Che gli americani hanno messo tante boe nel Pacifico e dopo un grande terremoto aspettano di vedere se passa l'onda dello tsunami, però se si ha tempo di farlo. E alle Samoa il tempo di percorrenza nell'ordine delle decine di minuti, non possiamo aspettare 10-15 minuti, non possiamo, come dire, aspettare di vedere se si è generato lo tsunami, perché nel frattempo lo tsunami ha impattato nella costa. Quindi la nostra strategia è diversa, noi mettiamo il sensore nelle zone di pericolo e vediamo subito se si è generato lo tsunami una volta che questa struttura tettonica si muove. Bene, grazie a Valentina Furlanetto, che ha seguito per noi tutta la mattina gli aggiornamenti sullo tsunami che si è abbattuto sulle isole Samoa. Ed è di poco fa la notizia che diversi edifici, tra cui palazzine e ponti, sono crollati e incendi scoppiati in seguito ad un terremoto del 7,6% gradi Richter che ha colpito il sud dell'isola indonesiana di Sumatra. Abbandoniamo gli esteri per il momento. Oggi è la giornata cruciale per il decreto anticrisi che contiene, lo ricordo, lo scudo fiscale. Oggi c'è il voto di fiducia, ma poco fa il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha parlato di oggettive anomalie procedurali nella complessiva vicenda dell'iter sul decreto. In diretta Andrea Viale. Sì, Daniele, l'aula di Montecitorio si riunirà nel tardo pomeriggio per questo voto di fiducia, il cui esito è atteso attorno alle 21. Governo e maggioranza hanno deciso di stringere i tempi per evitare la decadenza di questo provvedimento che, come ricordavi, contiene lo scudo fiscale e che deve essere approvato entro il 3 di ottobre. Il presidente della Camera Fini ha annunciato che se il via libera definitivo di Montecitorio non arriverà poi entro domani alle 15, ricorrerà alla cosiddetta ghigliottina, cioè metterà subito in votazione il provvedimento a prescindere dalla fase in cui è arrivato il suo esame, e questo sarà fatto per dare modo al Capo dello Stato, al Presidente della Repubblica Napolitano, di studiare il testo prima della scadenza, cosa che avviene di consueto. Sarebbe comunque la prima volta che questa ghigliottina viene applicata alla Camera. E stamattina Fini, comunque, in una nota ha precisato, ha convenuto sull'esistenza di oggettive anomalie procedurali che hanno accompagnato l'iter di questo decreto che è stato trasmesso dal Senato soltanto 10 giorni prima della sua scadenza. Naturalmente l'eventuale ricorso alla ghigliottina è contestato dall'opposizione, che critica anche nel merito lo scudo fiscale, giudicandolo un regalo agli evasori fiscali e uno schiaffo ai cittadini onesti. La maggioranza replica invece che si tratta di un provvedimento in linea con quelli adottati anche da altri paesi e che porterà nelle casse dello Stato nuove risorse, risorse necessarie poi per finanziare anche altri provvedimenti contro la crisi economica. Per il momento, Daniele, da Montecitorio è tutto. Bene, grazie. Alle 13:07 minuti e 8 secondi procediamo con un attacco frontale al mondo creditizio che giunge oggi dal ministro dell'economia Tremonti. Il motivo: il rifiuto di alcuni istituti di prendere i famosi Tremonti Bond. Una mancata richiesta, quella comunicata ieri da Unicredit e Intesa San Paolo, che non è, secondo Tremonti, una questione di sgarbo a me o al governo. Per il governo non emettere debito va anche meglio, prosegue il ministro. Il problema è che quegli strumenti farebbero molto comodo alle imprese. Poi l'affondo alle banche. Se continuano a fare soldi con la finanza, stanno solo preparando la prossima crisi. E un altro aspetto importante, che è quello degli incentivi auto. Berlusconi ne ha parlato questa mattina a Sky TG24 dopo l'allarme lanciato dall'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne. In diretta dall'assemblea Anfia, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Situazione del mercato automobilistico, effetti della crisi internazionale, elaborazione di una strategia concordata con il governo per uscire gradualmente dagli incentivi. Di tutto questo si è parlato questa mattina qui al convegno dell'ANFI, l'associazione che riunisce gli industriali del settore auto. Le vendite in Europa e in Italia sono in fase calante da circa 2 anni, ha detto l'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne. Il mercato è saturo, ha aggiunto, ed ha di fatto retto solo grazie agli incentivi statali, ha spiegato lo stesso Marchionne, che ha quindi giudicato positivamente l'apertura fatta questa mattina dal Presidente del Consiglio Berlusconi a nuovi aiuti al settore auto. Continuare con gli incentivi è la strada giusta, ha commentato il Presidente della Fiat Luca Cordero di Montezemolo, per il quale, sorreggendo l'industria automobilistica, si garantisce di fatto l'occupazione e il potere di acquisto di migliaia di lavoratori. E da Roma è tutto, linea allo studio. L'inflazione a settembre ha segnato un calo dello 0,2% rispetto ad agosto, mentre l'andamento tendenziale ha registrato una lieve accelerazione con più 0,2% rispetto al settembre del 2008, lo dice l'Istat. Non ci sarà alcuna proroga del termine per la regolarizzazione di colf e badanti che scade oggi, lo ha detto il ministro dell'Interno Maroni in un'intervista alla trasmissione Mattino 5. Si sono fatte delle stime assolutamente a casaccio, no? 500.000, 400.000, 700.000, 1 milione. Questa norma è stata fatta proprio per far emergere un fenomeno che non era conosciuto, quello appunto del lavoro nero, delle badanti, delle colf. E quindi basarsi su una stima per dire che è stato un successo o un flop è una cosa assolutamente sbagliata. Noi registriamo i dati che sono quelli delle domande presentate, oggi è l'ultimo giorno, e dopodiché questa sarà la realtà emersa e sarà la realtà regolarizzata. Non c'è alcuna possibilità di fare proroghe. Anno zero va avanti, dopo le polemiche, gli attacchi del centrodestra e l'istruttoria sul programma di Michele Santoro, annunciata dal viceministro Romani, domani sera parlerà Patrizia Daddario. Non si sa ancora, non è stato ancora deciso se è in collegamento video o in studio. È certo che parlerà certamente delle feste di Palazzo Grazioli. Ora ancora la politica internazionale e le vicende internazionali, con Hamas che conferma l'accordo raggiunto con Israele per la liberazione delle prigioniere palestinesi in cambio di un filmato di 60 secondi sul soldato israeliano Shalit. La notizia dell'imminente liberazione di 20 detenute palestinesi decise da Israele in cambio di un video che prova che il soldato israeliano rapito Gilad Shalit è in vita ha mobilitato i media arabi per tutta la mattinata di oggi. Il movimento islamico Hamas, che da 3 anni tiene in ostaggio il soldato, ha subito confermato che la liberazione delle detenute avverrà venerdì prossimo e fa parte di un'intesa. Dopo tante illusioni, siamo alla volta buona? La TV araba Al Jazeera sembra convinta di sì. Fonti diplomatiche del Cairo le hanno assicurato che la mediazione egiziano-tedesca ha avuto una forte accelerazione verso un accordo che prevede la liberazione di Shalit in cambio del rilascio di 1000 detenuti palestinesi. A portare il video su Shalit sarebbe stato il numero uno di Hamas, Khaled Meshaal, giunto 2 giorni fa al Cairo, dove ha preannunciato un'altra intesa, quella per la riconciliazione interpalestinese. Adil Fattah Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. Diario Afghano. È da 5 mesi che un centinaio di paracadutisti della Folgore prestano servizio nella base avanzata, la FOB della Valle di Musai, una delle zone più pericolose della periferia di Kabul. L'avamposto militare in tutti questi mesi ha tenuto alla larga gli insorti, che qui trovano il supporto della popolazione e lanciano continuamente attacchi. All'alba entrano nei villaggi dove trovano rifornimento. Basti pensare che molte famiglie che abitano qui sono quelle dei talebani che stanno in Pakistan. Appena arrivati a inizio maggio, i militari sono stati attaccati con Kalashnikov e razzi, anche 3 ore di fuoco. La vita in FOB è estremamente spartana, ci sono anche 4 donne. Sono 3 le vie d'accesso alla valle che dista 35 chilometri da Kabul. Partecipo ad un pattugliamento del territorio. Su una strada sterrata cerchiamo di evitare di passare sopra un IED, un ordigno improvvisato. A dimostrazione che qui ce ne sono, troviamo la carcassa bruciata e distrutta di un veicolo della polizia afghana saltato in aria. Poi il nostro lince si ferma perché qualcuno ha visto un ordigno inesploso, un UXO. È una bomba dall'involucro azzurro, viene subito segnalata alla squadra artificieri. Il capitano Riccardo Zazzeri, esperto di counter IED. Tante volte usciamo anche per un semplice bidone che può essere identificato come un possibile ID, però tante volte interveniamo anche per la risoluzione di un evento ID in quanto tale. A volte le bombe vengono nascoste all'interno dei culvert, i canali di scolo sotto le strade, veri e propri tunnel che possono celare la trappola esplosiva, oppure sono seppellite appena sotto il terriccio, nelle strade non asfaltate. Ci sono ordigni che vengono azionati con i cosiddetti piatti di pressione, che possono essere anche più lunghi di 1,5 metri. Ma la giornata ci riserva un'altra sorpresa. Una squadra di specialisti trova un razzo di 60-70 cm di lunghezza su una rampa improvvisata, pronto per essere lanciato giusto sul punto d'ingresso che abbiamo utilizzato per entrare in valle la mattina. Ed è tutto da Cristina Balotelli, che vi parla dalla FOB di Musai. Le 13:17:59, studio Daniele Biacchessi, la seconda parte del nostro notiziario. Nella prima abbiamo parlato di scudo fiscale, del tremendo tsunami che ha colpito e distrutto le isole Samoa, del monito del ministro dell'economia Tremonti nei confronti delle banche, della vicenda anno zero, di molte polemiche politiche e anche di storie internazionali come il nostro diario afghano. Ma la seconda seconda parte si apre con il rapporto sulla povertà presentato oggi dalla Diocesi di Milano. La crisi economica morde dove la carne è più esposta, tra gli operai, le donne straniere o italiane che crescono solo i figli, gli artigiani che fanno i conti con l'incertezza delle entrate e anche tra i lavoratori dipendenti, funamboli dell'indebitamento sempre in bilico sul precipizio. L'indagine annuale dell'Osservatorio della Diocesi di Milano non descrive terremoti, piuttosto un lento scivolare verso una zona grigia che si affaccia sulla povertà. Condotta su un campione di 16.000 utenti dei centri di ascolto e servizi Caritas e arricchita dai dati della Fondazione Antiusura San Bernardino dal fondo Famiglia Lavoro, istituito dall'arcivescovo. Emerge appunto che queste persone sono tornate più volte. La povertà si fa trasversale, ormai tocca i lavoratori dipendenti, ed è proprio il riconoscimento di questa nuova realtà che, secondo il direttore di Caritas Ambrosiana Roberto D'Avanzo, dovrebbe sollecitare tutti a ricostruire un tessuto condiviso dell'etica e dei valori. Allora, se sapremo rivedere i nostri stili di vita all'insegna della sobrietà, dice, la crisi potrà anche diventare un'occasione. Gigi Donnelli, GR24, Sole 24 Ore. La cronaca, la requisitoria dell'accusa al processo per il sequestro di Abu Omar dal Tribunale di Milano, Raffaella Calandra. Non c'è parte del mondo dove un governo democratico si sia mai sognato di coprire con un segreto di Stato reati così gravi. Dopo lunghe e accese schermaglie con le difese, il pubblico ministero Armando Spataro va dritto al cuore della seconda parte della sua requisitoria al processo per il sequestro dell'ex imam di Milano Abu Omar, e prima di formulare le richieste di condanna per i 26 vertici CIA e SISMI qui imputati, sollecita il giudice a sciogliere il nodo interpretativo lasciato a suo dire dalla sentenza della consulta sul segreto di Stato sugli atti, perché mai un governo democratico, men che meno la consulta, sarebbe offensivo per pensarlo, si infervora il PM, potrebbero coprire col segreto reati così. Cioè un sequestro, un'infamia, lo definisce più volte Spataro, un'infamia nata da un'iniziativa con la CIA da parte dell'allora direttore del SISMI Pollari e degli altri. Non ci furono accordi istituzionali tra le due intelligence, afferma ancora Spataro, secondo cui per questo il governo ha sempre opposto un imbarazzato segreto alla vicenda. Dai politici c'è stato un tentativo di intimidazione, era stato invece l'attacco in apertura dell'altro PM Ferdinando Pomarici. Tra poco nel pomeriggio ci saranno le richieste di condanna dell'accusa, quindi poi toccherà alle difese con le loro arringhe, e prima di Natale è attesa la sentenza di primo grado. E per ora è tutto. E polemica a Milano per i controlli anticlandestini effettuati dai vigili sui mezzi urbani. Li chiamano gli autobus galera, sono quelli blindati con le grate ai vetri usati per il trasporto degli ultra allo stadio. Ora i vigili del nucleo tutela trasporto pubblico di Milano, la squadra per la sicurezza attiva dal 2000, li usano per i controlli anticlandestini sui mezzi pubblici. Passano al setaccio le fermate, i tram, gli autobus, la metropolitana, tutti gli immigrati senza documenti vengono caricati sui mezzi speciali e portati al comando e in questura per i controlli. 3 dei 10 fermati ieri, scrive Repubblica, dopo le verifiche risulteranno in regola. Per 7 è scattata invece la denuncia per clandestinità, per 1 l'arresto, aveva in tasca il decreto di espulsione. A chi parla di misura discriminatoria, Tullio Mastrangelo, comandante dei Vigili Urbani di Milano, risponde: non si sa mai chi si possa trovare. Nella maggior parte delle situazioni sono delle bravissime persone. Certamente si può trovare anche quello che invece ha un provvedimento di espulsione per cui rischia l'arresto o anche altri provvedimenti a carico, è ricercato per altri reati. In quel momento questa responsabilità vuol dire tutelare lui e tutelare anche ovviamente il nostro personale ed evitare che si possano dare ovviamente la fuga. Al di là il mezzo vengono accompagnati con tutti i crismi e con tutte le accortezze dovute. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Negli Stati Uniti si registra in questi mesi il boom delle televisioni online. 161 milioni di utenti web americani hanno guardato video online. Il dato è di agosto ed è un record assoluto. Lo spettatore medio in un mese ha guardato televisione online per circa 10 ore. I video visti su internet sono stati complessivamente più di 25 miliardi. Chi la fa da da padrone. Ovviamente YouTube con circa il 40% dei video visti. I concorrenti sono lontanissimi, ad esempio al secondo posto Microsoft Sites con solo il 2,2%. Ancora lontani quindi servizi come Hulu, sponsorizzato da ABC, NBC e Fox, che a differenza di YouTube non punta sui contenuti inseriti dagli utenti, ma su contenuti premium offerti ad esempio direttamente dalle televisioni, meno visti quindi, ma potenzialmente più monetizzabili, e quindi anche YouTube sta correndo ai ripari. All'inizio di settembre ha spiazzato tutti annunciando che offrirà online a pagamento film in contemporanea all'uscita in DVD e Blu-ray, ma anche le serie televisive del canale Showtime. Qualche ora fa ha ricucito lo strappo, durato 9 mesi, con Warner Music. Su YouTube torneranno allora i video musicali dell'etichetta discografica. In cambio Warner otterrà nuovi ricavi dagli annunci pubblicitari pubblicati sulle pagine dei propri videoclip. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Alle 12.24 la pagina culturale. Da domani via le iniziative di ottobre Piovono Libri. Un mese intero ricco di appuntamenti, più di 1500 per chi ama la lettura. Iniziative nelle città ma anche nei piccoli paesi, promosse dal Centro per il Libro e la Lettura, che fa capo al Ministero dei Beni Culturali. Incontri con scrittori, reading, conferenze in luoghi anche insoliti, come spiega la direttrice del Centro per il Libro, Flavia Cristiano. Piovono letteralmente i libri sulle piazze, vanno in corriera, escono dai luoghi deputati che sono le biblioteche, le librerie, per andare incontro, avvicinarsi ai potenziali lettori che noi speriamo abbiano modo di crescere. E così a Parma scrittori come Harry De Luca leggeranno pagine di romanzi agli adolescenti. A Torino mini reading in tram per allietare i passeggeri. E ci sono anche le letture di favole per bambini a Genova come a Pozzallo, provincia di Ragusa. Gli appassionati di thriller hanno l'imbarazzo della scelta, da Gialli d'autunno al Villaggio del Libro di Frassineto Po in Piemonte, alla cena con Il Delitto organizzata a Montevarchi vicino Arezzo. Insomma, a ottobre Piovono Libri ce n'è veramente per tutti i gusti. L'elenco completo sul sito www.cepel.it, ma anche sul nostro sito radio24.it. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dopo il GR delle 10, vi porteremo in una delle città interessate. Alessandra Tedesco, GR24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport, dunque il calcio. Firenze che sogna, grazie a Jovetic, il giovane fuoriclasse che ieri con una doppietta ha regalato ai Viola uno storico 2-0 su Liverpool in Champions League. L'ex capitano Viola, Antonioni, a microfono di Massimo Di Scienza. Sono quei giocatori un po' in estinzione, questi fantasisti che diciamo trovano difficoltà purtroppo nel campionato italiano. Jovetic in questo momento è il giovane più interessante che c'è a livello europeo. Ha acquisito un po' di esperienza l'anno scorso e quest'anno ha avuto la chance maggiore per poter giocare. L'esplosione è stata veloce e immediata, perché le caratteristiche sono quelle di un giocatore un po' diverso da tutti gli altri. E quali sono le caratteristiche tecniche migliori di Stevan Jovetic? Ma la tranquillità con cui gioca, la tranquillità con cui va in campo e poi la facilità con cui va in gol. Ci sarà più tranquillità ora nella Fiorentina dopo le dimissioni del presidente Andrea Della Valle e dopo le famose accuse di Diego sui cosiddetti rosiconi? I risultati portano sempre a situazioni più piacevoli, però sinceramente l'uscita di Della Valle non è che mi è piaciuta molto e ci vuole più disponibilità, credo, da parte della proprietà. Bisogna essere più aperti alla discussione, bisogna anche rispettare il pubblico, non si può sicuramente avere tutto, bisogna anche subire a volte qualcosa. Dunque si completa questa sera il secondo turno della Champions League dopo la vittoria della Fiorentina su Liverpool e il pareggio dell'Inter a Kazan. Oggi tocca Milan-Juventus. I rossoneri ospiteranno lo Zurigo, la Juventus impegnata a Monaco con il Bayern. Alle 13:27 minuti e 27 secondi. Questo dunque il mondo e l'Italia secondo Radio 24. Vi saluta qui Daniele Biacchessi. Alla console Carmelo Lauricella, le prossime notizie alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.